Le favole di Esopo. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per paroledistorie.net. La volpe e il corvo. Quel corvo teneva in becco un grande pezzo di carne mentre stava appollaiato sul ramo di un albero. Una volpe, che andava a caccia di qualche bocconcino, passò per caso sotto quell'albero e vide quel pezzo di carne ben stretto nel becco dell'uccello nero. Oh oh oh oh! Ullalla, ullalla! Ma quanto siete incantevole, messere corvo! Il vostro manto piumato è nero e lucido come l'oscurità della notte quando vien baciata dai raggi della luna splendente. Oh, la vostra coda è così stupenda e così ben fornita di piume che mi fa vergognare della mia pelosetta. Voi, illustrissimo corvo, siete meglio di un pavone in primavera, e quelle ali immense che avete avuto in dono dalla natura fanno invidia persino al falco reale. Posso solo immaginare la meraviglia di quando fluttuerete in volo. Eppure, messere corvo, potreste essere il re di tutti noi animali, se solo non vi mancasse una dote di cui la natura vi ha fatto torto. Ma che peccato, che peccato! Il corvo strinse ancora più forte in becco il pezzo di carne e guardò di sotto. Divenne nervoso e si agitò sul ramo, zampettando di qua e di là. Quale dote gli mancava? Di cosa parlava la volpe? Avrebbe voluto chiederlo, ma non poteva parlare. Perché? Perché teneva in becco quel pezzo di carne. La volpe fece un profondo sospiro e poi disse mestamente: «La voce, messere corvo, vi manca la voce. Potreste essere sovrano di noi tutti, ma non possedete la parola, la parola. E in questo mondo crudele si sa, niente voce vuol dire niente comando. Lo so, non è giusto che la natura vi abbia privato di quel privilegio, ma e che ci potete fare? Accettatelo, messere corvo, e rassegnatevi!» Il corvo non riusciva più a stare fermo. Si straziava su quel ramo. La volpe intanto lisciava con la coda i fili d'erba di un bel prato in fiore e sospirava, come se fosse dispiaciuta per messere corvo, finché il corvo non ce la fece più. Spalancò il becco e gracchiò forte. Cra, cra, cra, cra! Ma che dice? Madama volpe! Cra, cra, cra! A me la voce non manca per niente. Cra, cra, cra! Sentite, sentite! Cra, cra e cra! Povero corvo! Appena aprì il becco per gracchiare, il pezzo di carne cadde giù. La volpe lo azzannò e rapida fuggì via, canzonando il corvo. «Hai ragione, mio grazioso corvetto! Tu hai proprio una gran bella voce, eh sì? Ma mi pare che ti manchi il cervello. Stammi bene, messere Corvetto. La favola insegna che la vanità ci può trasformare in sciocchi e sconfitti. Avete ascoltato Le favole di Esopo. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net